436. Cavolo ripieno. Prendete una grossa palla di cavolo cappuccio verzotto, nettatela dalle foglie dure della superficie, pareggiatele il gambo e datele mezza cottura in acqua salata. Mettetela capovolta a scolare, poi aprite le foglie ad una fino al grumolo di mezzo e sul medesimo versate il ripieno. Tirategli sopra tutte le foglie per benino, chiudetelo tutto e fategli una legatura in croce. Il ripieno potete farlo con vitella di latte stracotta sola o unita a fegatine e animelle, il tutto tritato fine. Per aggraziare e render delicato il composto, aggiungete un poco di balsamella, un pizzico di parmigiano, un rosso d'uovo e l'odore di noce moscata. Terminate di cuocere il cavolo nel sugo del detto stracotto, aggiungendovi un pezzetto di burro con fuoco leggero sotto e sopra. Non volendo riempire il cavolo intero, si possono riempire le foglie più larghe ad una, avvolgendole sopra se stesse a guisa di tanti rocchi. Alla balsamella può supplire una midolla di pane zuppata nel brodo nel sugo.